La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno. Nelle settimane scorse c'è stata una polemica che noi vogliamo riprendere qui alla Quota Rosa in un momento particolare rispetto a quello che sono i diritti delle donne nel mondo del lavoro. Si parla tanto di equiparazione, si parla tanto di stipendi che dovrebbero essere gli stessi e poi però siamo sempre un passo indietro. Allora, il ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, che sta combattendo contro i fannulloni da quando si è istituito il governo, ne ha tirato fuori un'altra, diciamo così, un'altra critica, ecco, in cui dice che le donne, in effetti, che lavorano nella pubblica amministrazione, insomma, le dipendenti statali, non fanno nulla e utilizzano il loro tempo al lavoro per andare a fare la spesa, per andare a fare shopping, per cercare un po' di conciliare lavoro e famiglia. È così? Noi lo chiediamo subito a Mirella Saba, dipendente del Ministero dell'Interno e anche sindacalista della CISL. Insomma, dentro i ministeri c'è un po' di tutto. Negli anni Ottanta poi c'era addirittura una sorta di commercio, c'è chi ritornava dall'India e vendeva le pashmine, c'è chi ritornava, non so, dal Perù e vendeva i maglioni. Adesso qual è la situazione? È veramente così? Non è assolutamente così la situazione. Anzi, noi dobbiamo dire con molta chiarezza che ci sentiamo assolutamente offese da tutta questa campagna che è avvenuta, a cominciare dai fannulloni e andare avanti con l'attacco alle donne. E negli uffici pubblici posso garantire, per la mia esperienza personale, che è un'esperienza più che ventennale, che assolutamente queste cose non accadono. E laddove dovessero accadere sono casi molto isolati e per i quali la pubblica amministrazione ha tutti gli strumenti per poter intervenire nella maniera migliore e più efficace. Quindi lei si sente assolutamente le pashmine, le borse, no, le borse, io mi ricordo che c'erano anche le borse, un po' era così negli anni passati, ora che un pochino, cioè che molto, come lei mi dice, quindi io sono molto contenta di sentirlo, non sia più così e che le persone, gli impiegati statali abbiano invece molta coscienza del proprio lavoro, io sono contentissima. Io mi ricordo una ventina d'anni fa che lo era però così un pochettino. Ma guardi, era una sorta di ammortizzatore sociale fare l'impiegato statale. Diciamo che la scelta iniziale delle donne in un'epoca sicuramente molto lontana, insomma, dai tempi attuali, è stata quella, diciamo, di indirizzarsi verso il pubblico impiego per un problema di tempi lavorativi, cioè la donna sceglieva più facilmente di provare a fare dei concorsi per entrare nell'amministrazione pubblica perché questo le garantiva di poter gestire la propria giornata anche a livello familiare in maniera più semplice, più organizzata. E questo non accade neanche più perché comunque i nostri tempi lavorativi si sono allungati e fino al pomeriggio noi abbiamo l'obbligo da molti anni previsto dalla normativa di essere presenti in servizio anche il pomeriggio perché i nostri tempi lavorativi riguardano 5 giorni alla settimana non più 6 e quindi la nostra presenza in ufficio è allungata fino al pomeriggio. Sicuramente c'è stata una grande campagna denigratoria che possiamo ricordare già da 10 anni fa. Alcune testate giornalistiche ci attaccavano parlando dell'impiegato statale che andava a prendere il cappuccino 10 volte durante l'arco della mattinata. Devo dire con grande serietà che questo non accade, che forse il caffè preso alla macchinetta dentro l'ufficio è una cosa che facciamo tutti e con dei tempi. Quello si fa anche nel privato, no? C'è anche una famosa serie televisiva, Camera Caffè, che appunto prende in giro questo momento di break, sì, no? In un'azienda privata. In un'azienda milanese, quindi non è che in un ministero a Roma si fa diversamente in questo caso di quanto si faccia in un'azienda milanese, ma quello che io le voglio chiedere, quanto guadagna in media un dipendente statale? Ma guardi, questa è una cosa che veramente mi fa piacere che lei mi stia chiedendo. Sì, perché noi poi puntiamo il dito, ma lo stipendio sono bassi. Di un contrattualizzato, chiaramente parliamo di dipendenti pubblici, e sta sui 1.200-1.300 euro, con punte in basso fino a 1.000-1.100, e quindi i nostri livelli iniziali stanno a 1.000-1.100 euro. Questo vuol dire che comunque, rapportata alle necessità economiche attuali, veramente siamo ai livelli minimi per poter avere un decoro anche della nostra presenza in ufficio, per poterci garantire garantire le cose essenziali, quelle che sono insomma i nostri doveri anche di immagine sul nostro posto di lavoro, quindi presenza, quotidianità e in tutte quante le incombenze che abbiamo nella vita. Allora, 1200 euro di media circa. per quante ore di lavoro? 36 ore settimanali. 36 ore settimanali e con le ferie, no? Normali di con le ferie 20 garantite, giorni. Sì, quanti sì, sono? Sì. 20-30 giorni? Insomma, abbiamo 28 più 4. 28 più 4, vabbè, insomma. Allora, abbiamo visto com'è cambiato. Quante donne, quant'è la percentuale delle donne nel suo ufficio, per esempio? Quante sono nel rispetto mio ufficio, agli siamo uomini? Siamo ai due terzi. La mia esperienza, certamente, è un'esperienza di grande presenza delle donne in ufficio. Ma questo perché appunto ci riferiamo a concorsi che adesso non si fanno più e quindi siamo in gran parte, c'è un'età media che va dai 45 ai 50-55 anni, siamo tutte donne mature, vogliamo dire così, e che hanno comunque alle spalle ancora problemi diciamo di mantenimento dei figli e problemi di dover comunque sopperire alle esigenze anche dei genitori anziani e a volte spesso purtroppo anche disabili. Allora, abbiamo sentito, come ci ricorda Mirella Sabba, che poi le donne hanno 20 lavori, cioè la dipendente statale accusata dal ministro Brunetta, lo ricordiamo, di andare a fare la spesa durante l'orario di lavoro e difesa però all'interno dello stesso governo dal nostro ministro delle pari opportunità, Mara Carfagna, che dice le donne vanno aiutate e non criticate e praticamente non devono cadere in queste provocazioni perché la strada grande maggioranza lavora. Allora, senatrice Ada Spadoni Urbani, Popolo della Libertà, membro della Commissione Permanente Lavoro al Senato. Poco prima dell'onda noi abbiamo avuto una sorta di discussione perché lei dice il problema è proprio questo, che gli uomini non si interessano alla famiglia. Giusto, cioè che abbiamo questa banca del tempo che viene un po' rosicchiata dal lavoro, dalla famiglia, dai nipoti, dalla mamma, cioè le donne si devono distribuire nel corso della giornata tra i mille lavori, mentre l'uomo ne fa solo uno. Io credo che questo sia molto importante perché non dimentichiamoci che siamo nate donne e che avremmo anche l'enorme gioia di poter nascere dei figli, di crescere una famiglia. Ricordiamoci che la famiglia è la prima cellula della nostra società e quindi che pesi solo su di noi, questo non va bene. Questo bisognerebbe dire al ministro Brunetta, che accusa le donne, giustamente, di andare a fare la spesa a coloro che ci vanno, perché se si lavora, se lavora con professionalità, si fa danno a se stessi se si perde del tempo andando in giro a fare la spesa o a fare shopping. Non so quante di queste lo faranno, questo l'ha detto anche la Mara Carfagna, ma chi lo fa sbaglia. Quindi bisogna lavorare per la famiglia in modo che si cambino i tempi, si armonizzino i tempi del lavoro con i tempi della famiglia, lavorare in modo di cambiare i tempi della città, perché anche per la qualità del lavoro. Una donna che di corsa la mattina accompagna il proprio figlio all'asilo e poi va a lavorare, gli ci vuole perlomeno mezz'ora per riprendersi dalla corsa che ha dovuto fare per attraversare magari con traffico la città. E quindi nell'economia del lavoro stesso, nell'interesse di chi dà lavoro, conviene rivedere i tempi, rivedere i servizi, fare in modo che si possa lavorare con dignità, perché una donna, e in questa ragione Brunetta quando dice che violenta se stessa andando, facendo queste cose, perché si punisce e ha meno possibilità di crescere nel proprio lavoro e nella sua dignità. Insomma, importante appunto, dice Ada Spadoni Urbani, Popolo della Libertà, importante è la dignità della donna. Lucia Codurelli, PD, sempre membro della Commissione Lavoro, ma della Camera. È chiaro che sono parole che non possono che essere confermate. Confermo ampiamente che esiste questo problema, esiste ed è annoso, credo che l'Italia porta una maglia nera in questo senso e non ci fa certamente onore. E credo che le battute da parte di un ministro che ha iniziato il suo da quando è diventato ministro del governo a provocare, perché ritengo provocazione, non gratuite. Credo che rappresenti in questo modo il sentimento più arretrato e arrogante della politica. Io credo che invece oggi, come diceva giustamente la senatrice, occorre interrogarsi a fondo del perché ancora oggi, dopo anni e anni di leggi buone che sono state approvate da parte dell'Italia, abbiamo una arretratezza culturale di questo tipo, dove si cerca ancora una volta di colpevolizzare le donne, perché sono le donne che non raggiungono la carriera, sono le donne che fanno pochi figli, sono le donne. Veramente questo non è più possibile sentirselo dire poi da parte di un ministro. Ma noi ci interrompiamo per un attimo per dare la linea alla regia e alla fine magari faremo uno scoop, fotograferemo il ministro Brunetta mentre va a fare la spesa lui. Quella sarebbe veramente uno scoop, anche fuori dall'orario di lavoro. La quota rosa. Il ministro Brunetta provoca, questa è la tesi di Lucia Codurelli. Insomma, l'ultima provocazione, questa qui della spesa, non le è piaciuta, onorevole, non le è piaciuta nemmeno quella lì delle faccette, di emoticon, le faccette per cui si va in ufficio pubblico e si può esprimere il gradimento o meno della persona, dell'impiegato che abbiamo davanti? Ma ne abbiamo discusso durante il provvedimento sulla pubblica l'innovazione della pubblica amministrazione. Credo che, conoscendo tutte noi, io non conosco quei particolari, di chi oggi lavora nella pubblica amministrazione, soprattutto le donne, sono da ringraziare. Io conosco in particolare il panorama dei comuni, comuni italiani, piccoli comuni, quelli che ogni giorno che garantiscono l'apertura degli uffici, la risposta al pubblico, sono le donne. E diciamocelo anche con molta, ma non è una difesa a priori, che sono le donne che accettano di fare quei lavori, perché io vorrei vedere quale potrebbe essere la produttività di quei lavori che le donne oggi fanno in tutta la pubblica amministrazione se ci fossero i maschi, perché i maschi sono, secondo il loro parametro, nati dirigenti, ma che non lo sanno fare, perché il problema a monte diventa chi dirige quel ministero, chi dirige quell'ufficio, e sono maschi perché sono arrivati tramite che cosa? Ed è per questo che anche il progetto di legge a noi non è piaciuto, perché non si è fatto il salto di qualità, ma si è riconsegnato alla politica il decidere chi verrà e come verrà promosso, non invece alla contrattazione, alla contrattazione decentrata, a chi veramente, oggettivamente riesce a valutare la professionalità e la capacità. E poi basta, perché credo, come ha detto giustamente la rappresentante della CISL prima, che se si vuole si può intervenire e far pagare a chi sgarra, a chi non rispetta, ma non è accettabile che oggi tutti gli impiegati pubblici si sentano dire dei fannulloni. Questo veramente, la reazione si può sentire in qualsiasi ufficio, in qualsiasi scuola. Poi io giro la domanda, quando ormai sarà tagliato anche il tempo pieno nelle scuole, i figli chi staranno a casa? Staranno a casa finalmente i papà, i dirigenti, a curarseli senza la mensa? Io credo che questa sia la provocazione che io lancio alla Gelmini, al ministro Gelmini e al ministro Brunetta, perché non si può provocare e dall'altra parte continuare a tagliare i servizi invece di andare su quella strada che la senatrice prima aveva ben evidenziato. Allora, fannulloni è stata la prima battaglia del ministro della funzione pubblica Renato Brunetta, con i fannulloni e gli assenteisti e soprattutto le visite fiscali degli ispettori che devono scattare dopo il primo giorno di malattia, però hanno fatto sì che l'assenteismo nel pubblico impiego crollasse. Allora, Mirella Saba, dipendente del Ministero dell'Interno e sindacalista CISL, in questo caso il ministro Brunetta un po' di ragione ce l'aveva se l'assenteismo è calato. I nostri contratti prevedevano già tutte le forme di controllo, per cui esisteva la visita fiscale e già dal primo giorno, durante anche le giornate festive, e quindi non si è inventato niente il nostro caro ministro Brunetta, questi strumenti già esistevano. In più le decurtazioni che vengono attualmente fatte sullo stipendio, già anche questa parte già era nei nostri contratti. Chiaramente non si riferiscono ai emolumenti fissi, riguardano emolumenti accessori, tipo indennità e quant'altro, però tutto questo già accadeva. La cosa gravissima è stata il volerci addirittura allontanare dal lavoro privato, allungando la fascia oraria dalle 8 di mattina alle 8 di sera, cosa che non accade neanche nel privato, perché le fasce orarie sono 10, 12 e poi il pomeriggio 17, 19, come era peraltro per noi prima di questa novità del ministro Brunetta. Questo praticamente, insomma, lei sta dicendo sentire... è stata una propaganda, ma il fatto che per esempio ci sia una faccetta che rossa che dice che l'impiegato è veramente fuori luogo, perché che l'impiegato statale, l'utente che andrà a uno sportello pubblico dove dovrà contestare una sanzione amministrativa che richiederà un dispendio di quattrini, chiaramente non troverà simpatico l'impiegato o l'impiegata che si trova dall'altro lato dello sportello e che è controllato, e quindi sarà un po' nervoso. Allora, quindi giustamente anche qui lei parla un po' di propaganda, però mi voglio riagganciare a quanto dice Lucia Codurelli del Partito Democratico. Ha detto tutti quanti gli uomini vogliono fare i dirigenti. Lei le risulta, Mirella Sabba? Tutti gli uomini, dirigenti. Per la mia esperienza personale, che la gran parte dei nostri dirigenti sono uomini. Sicuramente gli uomini vogliono hanno fare più disponibilità di tempo, e quindi questo sicuramente voglio dire ha penalizzato le donne sempre negli anni. Ecco, perfetto. E invece però la crisi parla al maschile, perché chi si licenzia durante la crisi sono i dirigenti, e quindi gli uomini perdono il posto di lavoro, le donne vanno a lavorare, cambia il capo famiglia e a sorpresa aumenta l'occupazione femminile, quindi abbiamo anche dei casalinghi. Allora, come sopravvive un uomo, anche in maniera un po' buffa, ai lavori domestici, le cosiddette lavatrici, lavastoviglie, battiscopa, battipanni? Noi lo chiediamo a Casalingo in un giorno, non disperato, manuale di sopravvivenza alle faccende di casa, e che praticamente è stato scritto da Nicola Santini. Perché lei ha scritto questo libro? Ma mi sono divertito perché ho fatto per 3 anni l'inviato a un programma che era il Treno dei Desideri, dove andavo a punire gli uomini che non aiutavano le mogli nei mestieri domestici. Era una parte comica del programma, e quindi dopo 3 anni ho detto: ma sarà il momento, invece che bacchettarli perché non aiutano, di dargli un manuale, quindi un elemento di ricostruzione, per invece insegnare a queste persone come non solo può essere utile anche ai fini dell'equilibrio familiare avere dimestichezza con i mestieri domestici, ma anche come può diventare piacevole. E per far questo ho scritto questo libro, dove si spiega per ogni mestiere domestico quante calorie si consumano, quali muscoli facciamo lavorare, e lo prendiamo un po' come uno sport, perché magari ci va un po' meglio giù la pillola pensando di fare attività fisica anziché mestieri domestici. Sì, ma lei dice consumo calorico per apparecchiare la tavola 125 kcal, ma lei è sicuro? Sono sicurissimo, perché bisogna prendere, aprire il cassetto, tirar fuori la tovaglia, stirare la tovaglia sulla tavola se lo vogliamo fare fatto bene, perché non si può mettere la tovaglia tutta spiegazzata, poi prendere i piatti, riporli, insomma tutta l'apparecchiatura, e sparecchiatura può portare a bruciare un numero calorico così alto. Ovviamente se lo si fa per una famiglia intera, se si fa Aspetta ogni volta, insomma con le tovagliette all'americana si consuma molto meno. Senta, invece per fare la spesa quante calorie si consumano? Allora, no, perché così lo diciamo al ministro Brunetta. Dipende da quanti sacchi della spesa prendiamo. Ma le donne possono confermare, le onorevoli che abbiamo in linea, di pacchi della spesa purtroppo ne trasportano tanti, anche se dicono che siamo deboli. Allora, facciamo un calcolo medio, diciamo un 130-150 kcal nel momento in cui abbiamo i due sacchi, dobbiamo prenderli, portarli dal supermercato verso la macchina, poi apriamo il baule, riprendiamo i sacchi della spesa, facciamo due rampe di scale, e questa è già un'attività con un certo consumo calorico, e naturalmente andiamo a tonificare le braccia, le avambracci e tutto quello che sono la muscolatura superiore del corpo. Lei è giornalista, esperto di bon ton, abita da solo, per questo ha sperimentato tutte queste cose sulla sua pelle? Ma in realtà devo dire, io ho avuto una vita piuttosto privilegiata dove non ho mai avuto bisogno di fare tutto questo. Proprio per questo motivo ho detto no, bisogna che a 30 anni un uomo impari a essere totalmente autosufficiente. Quando mi sono così messo lì anche a buttare giù un'idea di precetti da dare alla signora che mi aiuta nelle pulizie di casa, poi alla fine mi è nato un vero e proprio manuale e ho capito che anche per me era divertente poi farlo, era sportivo e mi sono divertito. Ah, ecco. Abbiamo visto la casalingo in un giorno. Non è soltanto il discorso di necessità, è una questione di autosufficienza, non si deve così sposare la prima strega che passa solo perché sa tirare bene le camicie. Grazie per la considerazione che ha delle donne, magari si poteva sposare una bella ragazza, un angelo, no? Sono sposato a 20 anni con un angelo, una signora carinissima, il matrimonio è durato 20 giorni esatti. 20 giorni, quindi lei è un po' bruciato. Poco di più. Va bene. Insomma... Allora, a volte noi ci sposiamo anche solo per sistemare certe cose, non facciamolo più perché le donne vanno rispettate e in quanto donne da rispettare aiutiamole anche nei mestieri domestici. Allora noi le consigliamo, Nicola Santini, ricordiamo Casalingo in un giorno, manuale di sopravvivenza alle faccende di casa, di spedire il libro anche al nostro ministro della pubblica amministrazione, della funzione pubblica, Renato Brunetta. Abbiamo sentito allora un momento anche un po' goliardico. Senatrice Ada Spadoni Urbani, PDL, insomma la crisi aiuta le donne, quindi probabilmente riusciremo a avere questi congedi parentali e gli uomini cominciano a scrivere manuali di sopravvivenza domestica, qualcosa cambia? Sì, non so quanto darà fastidio un uomo anche tra i piedi in cucina, ma comunque... Che pesa tutto, perché noi facciamo un po' occhio, loro le ricette... Noi donne siamo un attimo più autosufficienti e quindi credo che questi mariti tra i piedi non ci li vorremmo avere male, ma voglio ritornare al discorso. Noi non abbiamo parlato di Renato Brunetta, che ha un linguaggio piuttosto colorito e scioccante, però ci coglie sulle cose, cioè il 40% in meno di malati sono persone risanate quasi per miracolo, questo è un fatto acclarato ed accertato. Lei ci sta dicendo questo, stiamo in chiusura, quindi voglio far fare una battuta ad ognuna. Lucia Codurelli, il ministro Brunetta insomma però ha fatto sì che il tasso di assenteismo, dice la senatrice Ada Spadoni Urbani, crollasse. Ma su questo credo che sarebbe opportuno, chiederemo, avremo una prossima audizione a breve in commissione, sarà l'occasione. Credo che sia da verificare veramente. Io sono estremamente convinta che andrebbe anche visto dove e in quali luoghi semmai è crollato il perché, perché io faccio riferimento alla nostra amministrazione pubblica periferica in generale, nei luoghi dove c'è una, due, tre impiegati questo non è assolutamente possibile. Quindi lei allora dice... diventa che non si può sparare nel mucchio, perché una persona lavora meglio se è motivata, non lavora se non l'è motivato, perché a chi la guida che non è in grado di guidare il ministero piuttosto che altro. Quindi dare addosso non va bene. Mirella Saba, dipendente del Ministero dell'Interno. La grandissima parte con quello che ha detto adesso l'onorevole Codurelli, sicuramente le responsabilità vanno verificate a tutti i livelli. La percentuale del 40% in meno di malati assolutamente non mi risulta, ma non è che non mi risulta come Mirella Saba, non mi risulta come comunque dipendente del pubblico, e quindi sicuramente quindi... sono state fatte delle censimenti che non so quali riferimenti possano essere stati presi. Quindi vanno verificati i dati, allora noi vanno assolutamente verificati i dati, vanno rimandati diciamo all'attenzione anche i comportamenti della nostra classe dirigenziale, che con grande rispetto lo possiamo dire comunque ha delle responsabilità da doversi accollare in questo caso. Allora abbiamo sentito, attenzione perché le campagne del ministro Brunetta non sempre sono verificabili o comunque vanno verificate, ma noi vogliamo regalare al ministro Brunetta idealmente questo libro, Nicola Santini, Casalingo in un giorno, e magari sorprenderlo con le buste della spesa. La quota rosa. No, piano con la Bibbia. Non sono mica io che ho scelto di avere questo bambino. Sì, il bambino è qui, ma anche io sono qui. E io non ho la Bibbia da leggere per tirarmi su. Io non ce la posso fare. Prendermi cura di mio padre, tirare avanti, crescere un bambino. Io ho degli incubi, sai. Potrei essere ammazzata da chi mi ha messa incinta. E potrei, non lo so, volere male a questo bambino, odiarlo, gettarlo via. Non sto scherzando, è quello che sento. Allora? Hai qualche altra bella citazione della Bibbia per questo? Ah, no, scusa, eh. Sono un caso un po' troppo estremo. Ammanettata in un letto con dentro di me i risultati di essere stata violentata dal mio ex marito mentre mi sbatteva la testa per terra per farmi stare zitta. Il dramma di violenza e aborto, un dramma rappresentato a teatro magistralmente da Federica Bern, che di nuovo ci è venuta a trovare nella parte di Chili, un dramma americano, e andrà in scena al Teatro India di Roma dal 22 al 26 aprile. Allora, Federica Bern fa Chili, interpreta Chili, questa donna violentata dall'ex marito mentre veniva appunto picchiata, come abbiamo sentito nell'interpretazione di Federica, e poi c'è Barbara Valmorin che interpreta Du, una sorta di carceriera, ma poi si stabilirà subito un rapporto tra le due donne. Beppe Rosso, che è anche il regista dello spettacolo e interpreta il prete, Alessandro Lombardo, il marito. Federica, di nuovo un ruolo drammatico, tu sei venuta a trovarci l'altra volta e interpretavi una prostituta rumena, adesso interpreti una donna invece che viene violentata da suo marito e che a un certo punto decide di non volere il figlio, invece poi viene rapita da un gruppo sedicente di integralisti cristiani, esatto. Evangelici, come ci sono in America. Esatto. Potremmo in America. Definirli, diciamo così, un gruppo pro-life, se fossimo qui in Italia, se pensassimo, diciamo, al corrispondente di tante organizzazioni che adesso si stanno facendo molto sentire anche nella nostra società. Diciamo che appunto è un testo che ha a che vedere con l'aborto, però c'è allo stesso tempo questo bellissimo rapporto che si svolge tra le due donne, appunto Du, l'infermiera, un'attivista cristiana che molto fedele alle sue idee religiose, al suo intento, alla volontà che hanno questa coppia, sia l'infermiera che il prete, di far tenere il bambino a Chili. E appunto è un testo che ha a che vedere con appunto l'autodeterminazione della donna, la libertà individuale, cioè diciamo in maniera più, se volessimo allargare l'argomento, sulle libertà individuali. Ecco, in questo caso i due attivisti cristiani vogliono a tutti i costi far mantenere questo bambino, quindi la legano al letto, la tengono lì per vari mesi e poi verso la fine addirittura il prete presenta a Chili il marito, che è un ex alcolizzato che loro hanno ripulito e l'hanno portato lì cercando di riprendere questo puzzle ormai distrutto, cercando di voler mettere insieme una immaginaria famiglia ideale, madre, padre, bambino, anche nonostante questa storia di violenza che c'è dietro. Ma vorrei puntualizzare che il movimento più interessante di tutto il testo è la complicità che volente o nolente si viene a creare tra le due donne, l'anziana infermiera che porta avanti le sue non solo teorie diciamo religiose fatte con citazioni della Bibbia, ma anche e soprattutto con una grande umanità, no? E quando le due donne cominciano ad avvicinarsi, a raccontarsi il proprio passato, le proprie storie, diciamo che il testo ha anche una crescita che diventa quasi una commedia, cioè si allarga anche il testo, comincia ad alleggerirsi un pochino e cominciano a entrare dentro le storie di entrambe. E che storia ha per esempio l'infermiera, che è una vecchia signora, no? Sì, interpretata, esatto, appunto da Barbara Valmorin. Sì, infatti Barbara Valmorin è una grandissima attrice che già negli anni 70 fece le lotte appunto in piazza per l'aborto, per la legge 194 tuttora in vigore in Italia. Ricordo che abbiamo avuto la scorsa settimana il sottosegretario al welfare Eugenio Roccella, però non mi sembra proprio che possa essere per esempio anche in Italia questo cattolicesimo, anche persone che credono nella loro religione non raggiungono dei livelli di integralismo come negli Stati Uniti, dove sì, c'è una chiesa evangelica molto, sì, forte. Sì, però già adesso tantissime organizzazioni di volontariato sono presenti in maniera molto ferma, direi alcune volte anzi quasi di pressione formazione psicologica che svolgono negli ospedali, nei centri, insomma, nei consultori. Quindi ecco, diciamo, lei sarebbe appunto una volontaria, una credente, una che appunto cerca di a tutti i modi di portare avanti le sue ragioni. E quello che è interessante di questo testo è che proprio si butta sulle tavole del palcoscenico questo dibattito, no? In cui proprio si vedono le ragioni di tutte le parti dei religiosi, la parte della donna appunto che ha la sua ragione per compiere un'operazione di questo tipo, che è sinceramente dolorosa. Non penso che nessuno si vada diverta ad abortire in modo leggero. Anzi, abbiamo fatto anche recentemente una puntata dove appunto viene, purtroppo c'è un acuirsi dell'aborto relativo anche alla crisi economica, e quindi sappiamo tutti che nessuno va ad abortire in modo leggero. Che cosa ha significato per te dal punto di vista artistico lavorare con un'attrice come Barbara Valmorin? Beh, è una grandissima esperienza, soprattutto perché appunto io, che sono di questa generazione, do per scontato che sia un diritto la possibilità di abortire, mentre lei, diciamo, nella sua esperienza ha riversato su di me tutta la sua esperienza, quindi ovviamente mi ha raccontato quali sono state in prima persona le situazioni in cui uno doveva proprio mettersi in prima persona e lottare per avere questo diritto. Ora, in questo momento, quando appunto un personaggio come Kili viene deprivato di quel diritto di libertà personale che invece noi diamo per scontato, ecco che lì diventa importante prendere una posizione, darsi coraggio e cercare veramente di esprimere il massimo, insomma, della propria umanità, delle proprie ragioni, eccetera. Per te la battaglia come donna e come attrice è molto importante, si intersecano questi ruoli, perché appunto prima hai interpretato uno spettacolo di Claudio Pallottino, una prostituta rumena, poi adesso interpreti questa donna che è una scelta difficilissima, perché non è che va a abortire essendo stata violentata dal marito ubriaco e che mentre la stava picchiando. Quindi in breve, per te è importante che a teatro tu porti avanti questa lotta? Ma io penso che più che lotta, sì, può essere anche una lotta, però diciamo è un punto di vista, cioè il teatro è un posto dove uno va a esercitare il suo diritto civile di prendere una posizione rispetto a quelle che sono le istanze che sono presenti in quel momento nella società. Quindi io penso che sia cioè proprio naturale questo svolgersi, e poi vedo che veramente il pubblico riceve in maniera entusiasta il fatto di poter dibattere, di poter avere esposte davanti a sé delle ragioni di questo tipo, e quindi possa, insomma, fruire del teatro in maniera intelligente, ecco. Federica, tu hai parlato di questo testo che è di Jane Martin. Sì. Senti che c'è un pericolo nel nostro paese, oppure pensi che queste siano cose appunto che appartengono più a una società molto evangelica come gli Stati Uniti? No, penso che ci sia anche moltissimo qui da noi, perché il Vaticano conta tantissimo, perché le associazioni dei volontariati, per carità, vanno bene che esistano, ognuno deve esprimere la propria voce, però io penso quelli della mia generazione, i trentenni, devono sapere che devono prendere posizione rispetto a quelli che sono gli argomenti che si svolgono, i dibattiti politici nella società, perché non si può rimanere impassibili dando per scontato che tutto funzioni, perché non è così. Poi, cioè, se si vedono nelle storie private, ci sono tante storie private in cui bisogna prendere posizione, questo penso io. Tu quindi proprio vedi un teatro militante. E te però fai anche un'altra parte, ed è una parte un po' più divertente nella tua vita come attrice. Sì, sì. E fai proprio la parte di una mamma, quindi una maternità, Teresa e Polpetta. Ah no, Teresa e Polpetta. Teresa e Polpetta. Sì, no, è una bambina, non è una mamma. È una bambina. Tu fai proprio la bambina. Sì, sì, ah. sì. E qual è il tuo ruolo in questa sitcom bilingue, no? Sì, questa sitcom bilingue che va in onda sempre su Rai 2 alla mattina è un progetto per ragazzi nell'età scolare, e quindi insomma è una cosa divertente. È una ragazzina che vive con la talpa Polpetta e poi vari amici, tra cui appunto un bidone parlante, un pirata, e questo è un progetto di sitcom bilingue per avvicinare i ragazzi allo studio della lingua inglese. paese. E sei andata recentemente anche un pochino nelle scuole, che cosa hai scoperto? Com'è il livello di inglese dei nostri ragazzi? Diciamolo alle mamme che sono in ascolto, perché è importante vedere come anche un'attrice impegnata così seriamente sul fronte femminile e femminista, poi si è anche impegnata proprio anche con i nostri ragazzi, con i bambini. Allora, questo è il progetto NAZ del Teatro Vittoria con il Comune di Roma, quindi tendo a sottolineare che è un'altra cosa, è il progetto appunto di avvicinamento teatro laboratorio italiano-inglese condotto dal Teatro Vittoria e il Comune di Roma. Che cosa avete scoperto? Abbiamo scoperto che i ragazzini non scrivono neanche più bene l'italiano, scrivono con smsgese, non so come si possa dire, cioè se tutte le parole senza l'h, con i più, con i sei, con le per, eccetera. Con le per, con le k. Quindi sta veramente cambiando la maniera, cioè, e tutti mi dicono, ah no, ma è per fare più in fretta. Sì, però io ho detto, a scuola non è che vai di fretta, cioè questa mentalità ormai molto diffusa dell'andare di fretta, del scrivere tutto compatto, e quindi è difficile, proprio bisogna farli avvicinare, è difficile farli anche divertire, li vedo molto distratti. Vediamo che abbiamo degli input. Allora, noi ricordiamo quello che è fondamentale, e ti ringraziamo prima di tutto perché mi sembra che il teatro lo usi in maniera molto varia, appunto. Fai le sitcom in televisione per i bambini, vai a teatro con la scuola, e poi invece per le donne in ascolto ci sono anche le storie tragiche, le storie di donne. Ricordiamo, dal 22 al 26 aprile al Teatro India di Roma, e un testo di Jane Marty, Kili and Do, con Barbara Valmorin, Beppe Rosso che è anche regista, Alessandro Lombardo e ovviamente la nostra Federica Berne, che invitiamo sempre quando fa questi spettacoli che appunto ci aprono la mente e ci fanno capire che le donne devono sempre combattere per i propri diritti. Grazie Federica. La quota rosa. E chiudiamo questa puntata parlando di una cosa molto molto leggera in realtà. Una di quelle cose che un po' fanno sognare in questo momento anche non facile per il nostro paese. Buckingham Palace ha deciso. Basta discriminazioni tra uomini e donne. Scatta la rivoluzione a Buckingham Palace. Ora, la rivoluzione tra... in una monarchia è un po' difficile, almeno che non si faccia una rivoluzione come la rivoluzione francese, ma invece questa è una rivoluzione rosa, è una rivoluzione che fa sì che la regina Elisabetta sia la prima erede, e sarebbe stata la prima erede anche se avesse avuto dei fratelli maschi, se chiaramente fosse stata la primogenita. Insomma, non ci saranno più discriminazioni tra uomini e donne sulla linea di successione al trono d'Inghilterra. E per parlare di questo, chi meglio di Giorgia Bertelli, giornalista e corrispondente da Londra. Buongiorno. Buongiorno. Questa è in atto proprio una pari opportunità, anche perché, diciamola la sincera verità, il regno britannico è stato sempre caratterizzato da tre regine molto importanti nella sua storia: Elisabetta I, lo ricordiamo, l'età d'oro della monarchia inglese, la regina Vittoria e poi Elisabetta II. Regni peraltro lunghissimi, molto di più di quelli che sono stati quelli lì maschili. Quindi questo qui mette un po' fine a questa discriminazione storica. Esatto, che è di fatto una discriminazione soltanto storica che va avanti ormai dal 1701, quando appunto questo Act of Settlement ha dato un po' i principi per la successione al trono, e come dicevi giustamente tu, solo i protestanti e solo eredi maschi. Quindi la prima rivoluzione che possiamo segnalare è questa rivoluzione storica. Di fatto poi il ruolo della donna sul trono britannico è conclamato. Appunto, hai menzionato tre nomi che sono quelli a cui probabilmente tutti pensiamo se chiediamo di menzionare un sovrano britannico. A parte Enrico VIII, la regina Vittoria, la regina Elisabetta I e ora la nuova Elisabetta II sono quelli che sono il fiore all'occhiello della monarchia britannica. Quindi di rivoluzionario però c'è qualcosa per una membra della monarchia britannica, che è la principessa reale Anna, che fino a Bora sarebbe decima in linea di successione con questa nuova legge che il primo ministro Gordon Brown sta contrattando insieme a Buckingham Palace. Anna viene riportata in postazione 4 e quindi può scavalcare non Carlo, che è il primogenito, ma gli altri due fratelli che sono più piccoli, che sono Andrea ed Edoardo. Quindi se però Anna fosse stata più grande di Carlo, lei sarebbe stata la prima erede al trono, non ci sarebbe stata più discriminazione. Esatto, e quindi questa ha una certa portata per istituzionale. Poi tu hai giustamente ricordato Enrico VIII, che è stato uno dei re più misogini della storia, perché insomma, a parte le sue sei mogli, di cui tre morte in circostanze sì, drammatiche per suo ordine, no? Più che rosa era un regno nero, e se andiamo alla Torre di Londra possiamo capire perché molte delle sue mogli sono state decapitate lì. Però anche ricordando la storia inglese ricorderemo questa figura di Anna Bolena che lo toglie via alla sua consorte spagnola, e Anna Bolena protestante, e qui già poi subentra il secondo veto caduto, Anna Bolena protestante che però partorisce Elisabetta prima, quindi viene poi ammazzata da Enrico VIII, però insomma si è presa un po' una rivincita con l'erede al trono, perché poi Elisabetta I fu veramente una sovrana eccezionale. A proposito del secondo divieto che cade, appunto, era da Anna Bolena che i reali dovevano per forza essere, i reali inglesi, protestanti. Adesso invece possono anche sposare dei cattolici. Sì, questa è una delle novità, perché fino ad ora e anche ultimamente si dovevano o convertire oppure non sposarsi o rinunciare al trono, quindi non potevano. Da adesso in poi anche i cattolici, anche se Camilla fosse cattolica o chiunque delle donne aspiranti a regine del trono britannico volesse sposare appunto un membro, anche protestanti o anche cattoliche potrebbero benissimo arrivare sul trono d'Inghilterra. Però poi i figli dovrebbero essere educati secondo il rito anglicano. Sì, questo sì, non ancora, ci vorrà un passo successivo nelle leggi di Buckingham Palace per fare in modo, per rivoluzionare anche anni e anni di establishment monarchico. Però ecco, una delle grandi benefici di questo dibattito che si è aperto quando appunto Gordon Brown e la regina Elisabetta hanno finalmente annunciato, dopo anni di tentativi, che via con questo nuovo vecchio Act of Settlement e via con le disuguaglianze, ecco, il popolo britannico in generale ha cominciato a investigarsi ancora e chiedersi: ma la vogliamo ancora questa monarchia, anche oltretutto ora che ha più uguaglianza di diritti? Ebbene, la BBC ha fatto un piccolo sondaggio. E che cosa è scaturito? È venuto fuori che quelli inglesi favorevoli a dare parità di diritti alle donne reali sono l'89% e in generale i favorevoli alla monarchia sono il 76% degli inglesi, quindi tutto sommato è una monarchia che regge ancora sul consenso dei propri cittadini. C'è stato solo un momento che si è incrinato questo consenso, no? È stato quando è morta la principessa del popolo, Lady Diana. Esatto, è stato un momento con cui la regina Elisabetta ha dovuto lottare a lungo, tante dita puntate contro in patria e anche fuori dalla patria, perché parlando appunto di donne a Buckingham Palace, Diana era la principessa del popolo, era colei che rappresentava la monarchia agli occhi dei suoi cittadini, ed era una donna, non era neanche Carlo, che era il legittimo erede al trono. Quindi un momento molto importante, molto difficile, forse la crisi maggiore avuta dalla regina Elisabetta, che si sta riprendendo ultimamente. Sta riprendendo, ma noi l'abbiamo vista piuttosto arzilla, Giorgia, scusa se ti interrompo, veniamo un po' alle faccendine di casa nostra, no? Abbiamo visto questo Presidente del Consiglio, noi sappiamo che il nostro Presidente del Consiglio è un uomo molto molto energico, alle volte anche molto spontaneo, espansivo, allora va lì e fa Mr. Obama e l'altra dice sono Mr. Berlusconi. Abbiamo visto la regina che un pochino si irrigidiva, però in quel caso insomma, vabbè, è vero che il Presidente del Consiglio magari non doveva urlare, però il Presidente del Consiglio è stato eletto da una maggioranza, la regina Elisabetta no. No, ma in questo caso forse se ne fa un po' una maniera di questo Englishness, queste maniere che si devono tenere in Inghilterra. Voi sapete tutti quanto sono un po' rigidi gli inglesi, e quindi a prescindere da chi sia stato letto o meno, questo è stato veramente una gaffe che ha fatto un po' esplodere la regina, e non solo, anche i giornali britannici. Vi devo dire che non si è parlato tanto dell'accordo raggiunto al G20 quanto della gaffe del nostro presidente. I giornali pieni, da quelli distribuiti gratuitamente sulle metropolitane a quelli che si compravano, avevano in prima pagina il nostro presidente. E un'altra cosa però, anche Michelle Obama è andata oltre, perché ha abbracciato la regina. Insomma, questo non è stabilito dal bon ton. Non lo è, e questo dimostra ancora di più quanto la regina stia in realtà cercando di uscire un po' dai cliché. Alla regina ci si inginocchia davanti e ci si deve inginocchiare in un certo modo. Su questo era molto celebre la moglie di Tony Blair. Tony Blair ha fatto dei corsi prima di andare a presentarsi davanti alla regina. E quindi il fatto di vedere la regina effettivamente rimanere sotto le braccia della First Lady statunitense è stato veramente qualcosa a cui gli inglesi non erano mai aspettati, e non sarebbero mai aspettati, e sicuramente nemmeno la regina stessa. Vi dirò di più, tanta è la rivoluzione rosa che si sta compiendo a Buckingham Palace e anche nel modo dell'atteggiarsi della regina Elisabetta, che di già il mese scorso, il 21 marzo, la regina ha organizzato per la prima volta un banchetto aperto solo alle donne, chiamiamolo un banchetto rosa, ufficialmente per festeggiare il Girl Power. E hanno partecipato sia lei che la principessa Anna, e tra le illustri invitate a banchetto c'era anche la Rowling, la mamma di Harry Potter, e la direttrice di Vogue. Insomma, una rivoluzione rosa in atto, però noi speriamo che queste donne non debbano o non si sono dovute inginocchiare davanti alla regina. Speriamo invece appunto sempre di più che la monarchia britannica si modernizzi, e noi siamo molto contenti di essere una repubblica e di non doverci inginocchiare nemmeno di fronte al capo dello Stato. Ringrazio allora Giorgia Bertelli, giornalista e corrispondente da Londra, Paolo Corleoni in regia, Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quotarosa@radio24.it. Una buona giornata e una buona Pasqua da Elisabetta Fiorito.